Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 10 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche dei dati, sono vecchi tra virgolette, riguardano il 2014, ma dei dati complessivi oggi diffusi dall'Istat, un 2014 in cui il PIL ha toccato un livello, è sceso, diciamo, come prodotto interno lordo ai livelli di prima del 2000, e questo dice lunga sulla distruzione di potere produttivo che ha avuto questo paese in questi anni, in cui comunque la pressione fiscale è risultata leggermente in aumento e la disoccupazione resta a livelli altissimi, vicini ai record. Anzi, per quello che riguarda la disoccupazione complessiva, nel 2014 è a record dal 1977. Al 12,7%, nel 2013 era al 12,1%, a gennaio va un po' meglio, c'è il secondo calo consecutivo e anche nei giovani è scesa al livello più basso da 17 mesi, siamo sempre a livelli altissimi, però è il livello più basso da un anno e mezzo, al 41,2%, il tasso di disoccupazione giovanile è sostanzialmente quello dell'agosto 2013. Occupati invariati a dicembre, più 0,6% sull'anno. Spieghiamo sempre che gli occupati sono sostanzialmente quelli che lavorano, ho fatto 100, tutti quelli che potrebbero lavorare. I disoccupati invece sono quelli che non lavorano, tra chi sta cercando un lavoro, sono due cose diverse, perché alcuni che potrebbero lavorare, il lavoro non lo cercano per vari motivi, perché sfiduciati, perché preferiscono restare a casa e quant'altro. Detto questo, come si tengono assieme i due dati? Beh, abbiamo come dato certo un 2014 che è stato un altro anno da dimenticare, come ipotesi e proiezioni un inizio 2015, gennaio e febbraio, in cui alcuni segnali, penso alla produzione industriale, al fatturato, alla fiducia, vanno tutti nella stessa direzione, oltre che i segnali esterni, petrolio ed euro, però aspettiamo poi i dati certi, anche se abbiamo visto un dato sul PIL in crescita dello 0,1 a gennaio, aspettiamo più che dati certi che questi dati e queste indicazioni si trasformino in qualcosa di più strutturale. Ecco perché non ha nessun senso essere eccessivamente ottimisti, ha senso essere realisti e vedere che ci sono dei segnali di miglioramento in uno scenario fortemente compromesso come quello che esce dal 2014. Anche di questo parleremo poi della partita sulle telecomunicazioni subito in apertura, perché mentre domani il Consiglio dei Ministri esaminerà il piano sulla banda larga Ring, quello che avete letto sui giornali nel fine settimana prevede il passaggio integrale di tutta la fibra in rame in fibra ottica entro il 2030, uno stanziamento di 6 miliardi di euro per questi anni e un forte coinvolgimento del gruppo Telecom Italia. Allo stesso tempo ci sono nuovi sviluppi nella vicenda delle torri di ripetizione, il capitolo torri non è solo questa volta l'offerta di Mediaset sulle torri Rai, ma il fatto che Wind ha comunicato oggi di aver raggiunto un accordo con la spagnola Abertis per la cessione integrale del pacchetto delle sue torri. L'operazione varrebbe circa 700 milioni di euro, in realtà cederebbe la metà delle torri che possiede in Italia, che sono sostanzialmente 7.377. E questo comunque si integra nell'offerta lanciata la settimana scorsa da Mediaset attraverso la controllata A-Towers per comprarsi tutte la Rai Way, offerta pubblica di acquisto e scambio da 1.200 milioni di euro, e senza l'ok di Palazzo Chigi, come abbiamo spiegato molte volte, però l'operazione non potrà andare in porto perché la legge prevede che la Rai debba mantenere almeno il 51% di Rai Way. Visto che parliamo di questa operazione, vediamo anche i titoli in borsa. Per quello che riguarda Telecom, più 1,5% in questo momento. Per quello che riguarda invece gli altri titoli, faccio notare che oggi, oltre a Telecom Italia, Mediaset invece perde lo 0,30%, in evidenza c'è G-Tech più 3,40%, ST-Microelectronics più 2,77%, World Duty Free più 2,45%, Fiat Chrysler più 2,30%, e poi Autogrill più 1,90%, bene anche il lusso con Ferragamo più 1,30% e Luxottica più 1,30%, fronte opposto Pop Emilia Romagna meno 2,5%, Buzzi Unice meno 2,20%, Banco Popolare meno 1,80%. Per cento, li commenteremo più avanti i titoli. L'euro è a quota 1,11 nei confronti del dollaro, quindi debole, e va bene così. E il petrolio è sotto i 50 dollari al barile, a 49,7 dollari al barile. Questi temi, a cui si aggiungerà anche un terzo tema, e mi riferisco a quanto oggi presente sul Sole 24 Ore, la classifica dei comuni e delle multe per comune, ma anche e soprattutto il tema di quanto molti comuni non riescano ad incassare dal punto di vista delle multe effettivamente emesse. È un tema molto interessante, vi dico subito che, lo dico a chi è in ascolto, che in cima alla classifica, per chi non avesse visto il Sole 24 Ore di oggi, c'è Milano con importi medi di 176 euro a patentato e 140 milioni di incassi nel 2014, poi Firenze, Parma, Treviso e Bologna, ma il dato complessivo è che gli incassi da multe complessivamente dati nei vari comuni italiani hanno toccato il livello più basso dal 2008, e cioè 1,2 miliardi, il 12% in meno rispetto al 2013. Ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente alle altre notizie in breve. Vedo molti messaggi, sono un attimo di pazienza. Intanto partiamo, da come sempre, dall'economia internazionale, perché l'indice Nasdaq ha raggiunto l'indice dei titoli tecnologici americani i 5.000 punti. È la prima volta che capita dal 2000 e la battuta viene facile, mentre il nostro PIL è sceso sotto i livelli del 2000, dato del 2014, e quindi è tornato indietro di 14 anni, il Nasdaq va al livello più alto dal 10 marzo del 2000, appunto, e a 5.048 punti. Tra l'altro oggi è uscita anche la classifica degli uomini più ricchi al mondo, non riguarda, immagino, molti ascoltatori di questo programma. Al primo posto Bill Gates, la classifica è quella di Forbes fatta ogni anno. Al secondo posto il magnate messicano Carlos Slim, poi Warren Buffett, il guru degli investimenti, riconquista il terzo posto strappandolo ad Amancio Ortega. Fra gli italiani, la moglie di Michele Ferrero, Maria Franca Fissola, è al 32esimo posto, è la prima degli italiani, e precede Jack Ma, che è il numero uno di Alibaba. Leonardo Dal Vecchio è al 40esimo posto, Silvio Berlusconi al 179esimo posto. Venendo invece all'Europa, mentre abbiamo visto una leggera risalita dell'inflazione, meno 0,3, quindi resta in deflazione l'area euro, ma ha dimezzato il calo, che era dello 0,6%, il calo dei prezzi al consumo di gennaio. Dicevo, questa è la settimana in cui le banche centrali dell'area euro potrebbero iniziare ad acquistare titoli già da venerdì, dopo l'approvazione da parte del Consiglio della Banca Centrale Europea di giovedì della documentazione legale necessaria. È un'operazione, ricordo, che va sotto il nome di quantitative easing, che vale complessivamente almeno 1.100 miliardi di euro. Ufficialmente parte il 9 marzo, quindi lunedì prossimo, con acquisti che, stando a quello che ha dichiarato la BCE, dovrebbero ammontare a 60 miliardi di euro al mese, di cui 45 in titoli di Stato. Dicevo, mentre si entra nella settimana cruciale per l'acquisto di titoli di Stato da parte delle banche centrali, oggi sono tornate in maniera prepotente le voci di un possibile nuovo aiuto alla Grecia, nuovo salvataggio, sarebbe il terzo salvataggio alla Grecia. I partner europei sarebbero valutando infatti un terzo salvataggio compreso fra i 30 e i 50 miliardi scusatemi, di euro. Lo ha detto il ministro delle finanze spagnolo Luis de Guindos. Madrid fornirebbe il 13-14%. Stanno arrivando conferme quindi delle indiscrezioni pubblicate la settimana scorsa da alcuni settimanali tedeschi di un nuovo aiuto alla Grecia. E di Grecia si è parlato anche oggi a Berlino, nel senso che il nostro Presidente della Repubblica il Presidente Mattarella è a Berlino, ha incontrato il suo omologo tedesco Gauck e poi incontrerà anche Angela Merkel. Il Presidente della Repubblica ha detto che Berlino apprezza le riforme dell'Italia e che lo stesso governo di Berlino ha definito riforme impegnative. Io ringrazio molto il Presidente Gauck per le espressioni cortesi che ha avuto nei miei confronti e per gli apprezzamenti che ha espresso nei confronti del mio paese e di quanto vi sta avvenendo con un impegnativo processo di riforma. Le relazioni tra la Germania e l'Italia sono speciali, hanno davvero un tasso di univocità, di condivisione, di amicizia il più alto possibile e sono anche un elemento che contribuisce a rafforzare la spinta verso la crescita dell'integrazione dell'Unione Europea, che è necessaria sempre di più. La crisi ha provocato molti sacrifici in tante parti dell'Unione, ha creato molte difficoltà, ma ha anche provocato la nascita di strutture più solide dell'Unione Europea. E occorre far di più, occorre avere un maggior governo della dimensione economica e monetaria dell'Unione, occorre avere una spinta maggiore verso un ridare slancio, come Germania e Italia si augurano costantemente, all'integrazione europea. Allora, vedo anche molti messaggi sui dati sull'occupazione. Allora, sono due cose diverse. Una è la fotografia del PIL e dei dati sulla pressione fiscale, il debito, il crollo degli investimenti, un po' di ripresa dei consumi delle famiglie, tutti i dati relativi all'intero 2014. Oggi l'Istat fornisce tutti i dati aggregati assieme. Ed è vero, la pressione fiscale è tornata a salire nel 2014 al 43,5% del PIL contro il 43,4% dell'anno prima. Il debito è al 132% del PIL, è un record dal 1995. Il rapporto tra debito e PIL ha superato le previsioni del governo. E soprattutto sono crollati gli investimenti perché i consumi hanno fatto una variazione nulla, le spese delle famiglie hanno avuto un leggerissimo aumento, più 0,3%, ma la spesa delle pubbliche amministrazioni ha fatto meno 0,9%, e quelle delle istituzioni sociali private meno 0,3%, e soprattutto, ripeto, gli investimenti sono calati del 3,3%, e senza investimenti non ripartirà mai l'economia di un paese a partire dalla sua domanda interna. E questa è la fotografia del 2014. Poi ci sono i dati sulla disoccupazione a gennaio, che è salita complessivamente a gennaio, nel 2014 è a record dal 1977, a gennaio è scesa leggermente, è il secondo calo consecutivo, e quella giovanile, come ricordavo, è scesa al livello di agosto 2013 al 41,2%. Ecco perché poi il Presidente del Consiglio dice con un Twitter: più abbiamo creato 130.000 posti di lavoro in più nel 2014, bene ma non basta. E il Ministro Poletti dice nel 2015 potrebbero esserci 150.000 occupati in più, tutti i centri di studi ci danno 100.000 occupati in più, ma penso e sono fiducioso che il numero di 150.000 possa essere un numero vicino alla realtà. Nel frattempo siamo venuti a sapere che gli occupati part time nel 2014 hanno toccato i 4 milioni contro i 18 milioni a tempo pieno, e il part time involontario è cresciuto moltissimo, che è il 64% di tutto il part time, e cresciuti anche i dipendenti a termine, più 6,6% tra ottobre e dicembre, e i collaboratori più 8,9%. Adesso arriviamo al primo tema, che riguarda la guerra per le torri, la partita complessiva delle telecomunicazioni, Torri Win, ma anche il progetto che investe direttamente il gruppo Telecom e il passaggio dal rame alla fibra. Prima di tutto però i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, realizzati con Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti, e il tema riguarda i nuovi sviluppi anche nelle tensioni che sono anche di carattere economico con la Russia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Dopo Grexit, ovvero l'uscita della Grecia dell'euro, è arrivato un nuovo termine, Ruxit, ovvero l'uscita, per così dire, della Russia dall'Europa. Non stiamo parlando naturalmente né di euro né di valute, ma di presenza politica. Già dai tempi di Gorbaciov si parlava di una casa Europa in cui la Russia faceva un po' la parte del leone, un po' come fa gli Stati Uniti sull'Occidente. In realtà quel processo di integrazione commerciale, se non politica, della Russia ormai si è fermato bruscamente. Le vicende legate a Putin, soprattutto l'ultimo omicidio, la guerra in Ucraina, le tensioni crescenti con gli Stati Uniti e con l'Europa stanno completamente cambiando i termini delle relazioni fra Est e Ovest, un po' come avviene la guerra fredda, ma con un riflesso in più. Merito della crisi russa, ma francesi e tedeschi si stanno riavvicinando, quell'asse che si era inclinato con la Grecia, con Parigi che difendeva Atene e le sue, la richiesta di riforme più morbide, e la Germania e la Merkel che chiedevano invece la linea dura, beh, tutte quelle tensioni sembrano sopite in un nuovo asse che deve rispondere alle sfide della Russia. La cosa interessante, ma con una preoccupazione, qui stiamo ancora una volta parlando di Europa, non di asse franco-tedesco o di asse tedesco-americano. La speranza, anche in questo caso, è che si sappia trovare una via politica per uscire da questo tunnel. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, il gioco delle torri, primo tema di oggi. In realtà non sono solo le torri, i ripetitori, ripeto, oggi Wind ha annunciato che ne cederà la metà di quelli che ha in Italia al gruppo spagnolo Abertis. Cederà appunto sostanzialmente 7.377 torri per quasi 700 milioni di euro, e non c'è la partita Mediaset Rai. Nel fine settimana sono uscite le indiscrezioni su quello che poi sarà il Consiglio dei Ministri di domani, dove si esaminerà il piano sulla banda larga Ring, che prevede il passaggio integrale alla rete in fibra ottica entro il 2030. Attenzione, non stiamo parlando di tecnologia, ma di elementi competitivi per il paese. Quando parliamo di infrastrutture, vanno bene i ponti, le autostrade, dipende poi come vengono fatti, dove vengono fatti, e ci mancherebbe l'alta velocità, ma occorre anche l'alta velocità su internet, perché un'azienda piccola, media, italiana deve competere sui mercati anche attraverso la velocità di accesso alla rete in arrivo e in uscita, e quello è un gap infrastrutturale potentissimo, anche perché se c'è un vantaggio della rete, beh, è quello che mette sullo stesso campo da gioco, se hai lo stesso collegamento, soggetti, imprenditori che operano magari in provincia o in luoghi più sperduti, così come quelli che operano nei grandi centri urbani. Hanno tutte le stesse possibilità d'accesso, a patto che viaggino tutti con la stessa velocità. È il vantaggio della rete, cioè distrugge il senso del luogo perché ti mette in competizione a livello globale, però devi poi poterla giocare correttamente questa competizione. Allora, gli investimenti complessivi necessari per ammodernare la rete di telecomunicazione italiana vengono quantificati in 30 miliardi di euro. Noi viaggiamo a una velocità lentissima in Italia, come Grecia e Turchia, in media è 9,18 megabit al secondo, quindi siamo tra gli ultimi in assoluto. E agli operatori, se ho ben capito, verrebbe imposto di sostituire il rame. Ce lo racconta Laura Galvani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Grazie anche al direttore di Wired Italia, Massimo Russo, in collegamento con noi. Buonasera Massimo. Buonasera a voi. Con te vorrei capire dopo se i tempi, perché il passaggio integrale alla fibra ottica nel 2030, alcuni ascoltatori mi scrivono, ma non è tardi fare tutto questo investimento che si concluderà nel 2030, chissà cosa... quale sarà il supporto tecnologico nel 2030, quale sarà la sfida, quindi rischiamo di arrivare vecchi. Comunque, prima di tutto il piano del governo che dovrebbe essere esaminato domani dal CDM, Laura. Allora, domani ci dovrebbe essere questo primo Consiglio dei Ministri che in teoria dovrebbe esaminare le linee guida di quello che sono il piano che loro hanno chiamato ultrabando, banda larga sostanzialmente in Italia, che è il piano per ammodernare la rete, per digitalizzare il paese, un piano di cui, dicevi tu prima, sicuramente l'Italia ha bisogno. Ora si tratta di capire le modalità. Le indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi hanno evidentemente messo in allarme Telecom Italia, perché sono indiscrezioni che vanno a smantellare uno di quelli che è gli asset chiave della compagnia, ossia la rete in rame. Sostanzialmente si raccontava che il governo volesse imporre a Telecom entro il 2030 lo smantellamento dell'intera rete in rame e la sostituzione del doppino con fibra ottica. Allo stato attuale Telecom ha un piano diverso e sta investendo o ha ipotizzato di investire circa 10 miliardi in 3 anni per portare la fibra ottica fino alla cabina, e dalla cabina a casa sostanzialmente rimane il doppino. Loro ritengono che anche questa tecnologia permetterebbe di accelerare sicuramente il traffico internet, e contestano il fatto che gli venga imposto soprattutto quale tecnologia dover applicare. Loro sono un'azienda privata. Cioè la versione FHHT/B. No? Esatto, invece che quella che loro stanno proponendo, che è la FTTC. Per loro l'impatto fondamentale sarebbe quello legato allo smantellamento dell'intera rete in rame. Loro ce l'hanno in bilancio a 15 miliardi di euro, di cui circa 11 miliardi di goodwill. Vorrebbe dire 11 miliardi di svalutazioni da qui al 2030. Allora, ha ragione chi dice che ho detto Alibaba, è Alibaba, il sito cinese, e dall'altro un Twitter. Avete ragione, chiedo venia. E quando hanno ragione gli ascoltatori hanno ragione, però il tema è molto chiaro. Da un lato il governo vorrebbe imporre la tecnologia e l'ammodernamento necessario, creando tra virgolette un danno economico a Telecom, perché come tu ricordavi c'è anche il tema delle svalutazioni della parte in rame. Assolutamente. Per accelerare questo processo però, se ho ben capito, il governo sarebbe pronto a stanziare 6 miliardi di euro, di cui Telecom riceverebbe 1 miliardo? Tra i 6 e i 7 miliardi, dipende sostanzialmente da quello che riescono a raccogliere, perché sarebbero denari che arrivano dall'Europa, denari che arrivano dalle regioni, dipende. Il budget è tra i 6 e i 7 miliardi, però si diceva che sono circa 30 miliardi i soldi necessari per ammodernare la rete, quindi è comunque una quota parziale rispetto a quelli che sono gli investimenti necessari. E gli altri 24 chi li metterebbe? Appunto, è quello il tema. Allora, Massimo Russo, col massimo rispetto per il governo, però vediamo di non generare troppo fumo e poco arrosto, perché io capisco l'importanza, cioè da sempre sosteniamo che quando parliamo di investimenti infrastrutturali ci sono le infrastrutture classiche e le infrastrutture digitali. Però non vorrei che qui si sbandierasse un piano, sai, da qua al 2030. E allora la domanda è molto semplice, è questa. Dal tuo punto di vista, il piano del governo è sicuramente più ambizioso, ma quello più realistico è quello di Telecom, che ha un approccio, passami il termine, più modesto, cioè non di sostituzione complessiva, diciamo, della nuova rete italiana, oppure è giusto puntare alto e andare a sostituire completamente il rame con la tecnologia FTTH/B? Allora, gli obiettivi europei dicono che entro il 2020 il 50% dei cittadini dovrebbe avere una copertura a 100 megabit e tutti i cittadini dovrebbero avere la copertura a 30 megabit. Se ci mettiamo in quest'ottica, il piano Telecom risponde a questi requisiti probabilmente. Il punto vero però secondo me è un altro, che cosa si dimostra più a prova di futuro. Cioè, mentre noi qui stiamo discutendo di un paese che ha perso molte posizioni, perché nella connettività fino a una quindicina anni fa l'Italia non era malmessa, oggi è messa quanto Grecia, Bulgaria, Romania, ma fanno meglio di noi la Spagna, il Portogallo, la Polonia, la Croazia. Ecco, in un paese che ha perso tutte queste posizioni, e ricordiamo, con la Commissione Europea che nelle sue stime valuta che ogni 10 punti percentuali di penetrazione della banda ultralarga portino a un aumento del PIL dell'1,5%. Mm. Ecco, in una situazione di questo genere forse è meglio per una volta ragionare a prova di futuro. Quel che ci mette, diciamo in qualche modo, al sicuro rispetto alla prevedibilità del futuro è la fibra ottica, perché mentre noi qui discutiamo dei 30 megabit o dei 100 megabit, in altri paesi discutono del giga a famiglia, no? Che ogni famiglia abbia 10 volte tanto. I cinema di Berlino, per esempio, sono collegati a 500 megabit, e questo dice che ce ne frega. Ci interessa perché, per esempio, ha permesso di togliere dalle strade una serie di trasporti che portavano ai cinema i supporti per poi trasmettere i film. Cioè, quello che ci dobbiamo immaginare è che avere una rete veloce consente non solo guardare la televisione in alta definizione, ma toglie un sacco di traffico dalle strade e permette di sviluppare la mobilità in un altro modo, consente alle aziende, prima citavi Alibaba, di esportare immediatamente o di acquistare dai mercati internazionali, diventare immediatamente digitali, anche abbattendo una serie di problemi che in Italia ci sono dovuti alle scarse dimensioni delle aziende. Insomma, ha una serie di benefici rispetto ai quali veramente è necessario un salto, un po' uno scatto in avanti. C'è da dire che non è detto che questo scatto in avanti possa venire solo dalla rete fissa, e quindi, correttamente, come dicevi tu all'inizio, in fondo stanno avvenendo su tavoli diversi in questi giorni due partite abbastanza simili, perché dall'altra parte c'è tutta la partita che riguarda le torri, sulle quali viaggia il segnale televisivo, ma sulle quali viaggia anche il segnale delle reti mobili. E il 5G, sul quale già aziende come Ericsson e Huawei stanno lavorando per definirne gli standard mondiali, è una rete che sicuramente ha una velocità ultralarga, e quindi abilita ad esempio quel che noi chiamiamo l'internet delle cose, perché noi ormai ci stiamo riempendo le case di oggetti connessi e che a loro volta succhiano e necessitano di banda. Certo. Solo per dare una misura di quanto veloce sia questo cambiamento, noi in 15 anni abbiamo collegato 1,5 miliardi di oggetti alla rete, solo l'anno scorso sono stati venduti quasi 1,5 miliardi di smartphone, quindi solo in un anno abbiamo aggiunto, diciamo, 1,5 miliardi di collegamenti che prima ci avevamo messo in campo. Vorrei capire, appunto, le due partite come si tengono assieme. Tu già lo facevi capire, nel senso che da un lato c'è la partita della fibra, del doppino che ti entra in casa, per far capire a tutti, dall'altra c'è la partita del tuo cellulare, lo smartphone con cui tu sei connesso. E però tu dicevi, attenzione, Telecom, il piano Telecom va bene, soddisfa i requisiti europei, ci porterebbe a 30 megabit, quindi triplicherebbe la media del paese, però se ho ben capito sarebbe insufficiente verso nuove sfide. La rete in fibra ci metterebbe sostanzialmente al riparo da nuove future evoluzioni. Di nuovo in diretta con Focus Economia. Allora, prima di arrivare ai mercati finanziari, Laura Galvagni, il ragionamento del direttore di Wired sul tema della guerra per le torri e del piano del governo, soprattutto su questo ci siamo concentrati per arrivare alla sostituzione del rame, alla fibra ottica in tutto il paese. Diceva Massimo Russo, attenzione, insomma, se vuoi la richiesta di Bruxelles, va bene anche il piano Telecom, HTTC, se non ricordo male. FTTC. Scusami, FTTC. Mentre se vuoi proteggerti e comunque metti al riparo sulle future evoluzioni, è molto meglio la fibra. Su questo però in Australia, se non ricordo male, il governo ha imposto all'operatore di telecomunicazioni una cosa analoga, ma l'ha ben rimborsato. L'ha remunerato, nel senso che ha fatto sostanzialmente quello che vuol fare il governo Renzi, quindi promuovere la fibra in tutto il paese, ma ha anche previsto un meccanismo di compensazione, ossia ha dato $1,000 per ogni utente raggiunto. In quest'ottica qui, economicamente potrebbe cominciare a diventare sostenibile per Telecom un investimento di questo tipo. Diversamente, Telecom, ma anche gli altri operatori, non solo Telecom, sostengono che comunque anche con l'FTTC e Fastweb la sta già promuovendo, si può arrivare ai 200-300 megabit con le nuove tecnologie. C'è una dichiarazione di poco fa del sottosegretario alla telecomunicazione Antonello Giacomelli, che ha detto: attenzione, nel piano non c'è nessun arbitrario spegnimento della rete, no lo switch off. Quindi noi abbiamo immaginato un piano per stimolare gli investimenti, non il contrario. Sembra un minimo ritracciare quanto è uscito nel weekend, cioè non ci sarà un obbligo a passare in cui ti spengono la rete se non sei passato in fibra. Però per concludere, intanto vorrei sapere da Laura Galvagni se è d'accordo con quanto diceva Massimo Russo, che la partita delle torri sia più o meno la stessa partita, nel senso che quello riguarda il mondo del mobile, ma è sempre di chi avrà in mano le connessioni che stiamo ragionando. Sono due partite che si intrecciano sicuramente, si sfiorano sia a livello di, come dire, di interpreti che di, certo, di soggetti che di risultati finale. L'obiettivo è sempre quello di ammodernare il paese. Ecco, e poi mi rispondete sulla domanda iniziale, prima Massimo Russo e poi Laura Galvagni, ma in realtà che possibilità ci sono che questo piano così futuristico vada in porto? Al di là del fatto che sto ricevendo decine di sms, di messaggi di ascoltatori che dicono: ma che stiamo parlando di 30 mega? Qui tanto se ne arrivano due, criticano anche Alice, altro che 100 mega, va bene se ne arrivano 7. E questo è vero, nel senso che chiunque di noi abiti in Italia sa che i 3G sono sullo smartphone o sul telefonino, sono virtuali, e che a casa non è che quelli promessi sono sempre il massimo che ti può dare, no? Come una macchina che può andare a 220, il problema è che se poi viaggia regolarmente a 60 hai un problema. Allora, Massimo Russo e poi Laura Galvagni, è troppo ambizioso e rischia di poi diventare un nulla di fatto, oppure in realtà è la vera frontiera? Massimo? Ma secondo me la vera frontiera è vero quello che precisava Giacomelli nel piano. Da quello che risulta anche a noi dalle verifiche che abbiamo potuto fare, non c'era un provvedimento di legge per lo spegnimento arbitrario del doppino, ma in realtà ci sono una serie di meccanismi di incentivo, cioè cose tipo: se nel 2030 ancora c'è la rete a rame per un utente che invece avrebbe anche a disposizione attraverso un altro operatore la fibra ottica, allora quell'utente, diciamo, riceverebbe un bonus per passare al nuovo operatore che dà la fibra ottica. In qualche modo è, come dire, uno stimolo, un pungolo a Telecom in primo luogo e agli altri operatori a dire: occhio, che se no il tuo cliente nel 2030 ha un incentivo a cambiare operatore se tu non gliel'hai ancora dato il cambiamento di dal doppino alla fibra. Laura Galvagni. Sì, il concetto è proprio questo, infatti non a caso loro ipotizzano anche di costituire Ring, cioè un soggetto che va a fare competizione con gli altri operatori di telefonia. Se non lo fai tu, lo facciamo noi e vediamo chi arriva prima. Siamo sicuramente in una fase negoziale dove si cerca di trovare probabilmente la quadra per un piano che vada effettivamente poi a digitalizzare il paese. Un ultimo commento lo chiedo invece a Massimo Russo sulla notizia di oggi che riguarda Wind, ossia 700 milioni di euro quasi per cedere la metà delle sue antenne, delle sue torri, 7.377 torri. Massimo. Ma sì, questo ad Abertis, agli spagnoli di Abertis. Questo del possesso delle reti sta diventando una cosa sempre più centrale. Sì, ma tutto in una settimana, cioè inizia da mese, un'accelerazione mai vista. Poi siamo anche noi che colleghiamo questi diversi. Beh, insomma, sì, però le notizie ci sono, la ceduta sì, oggi. Sì, non c'è dubbio. Sta di fatto che probabilmente anche il tentativo da parte di Mediaset dell'OPA che forse Mediaset stessa sa che non può andare a buon fine, è quello di costituire il famoso polo nazionale all'interno del quale poi potrebbero esserci diversi soggetti, la stessa Mediaset, che poi potrebbe fare un po' quel che fa Terna per l'elettricità, cioè fornire a tutti gli operatori alle medesime condizioni, quindi con trasparenza di mercato, l'accesso alla rete. Chiaro, c'è una coincidenza fino a un certo punto, nel senso che poi evidentemente il settore vuoi che Mediaset abbia rotto o abbia aperto le danze, per meglio dire, più che rotto il ghiaccio, ma insomma a questo punto la partita è iniziata, vedremo domani cosa uscirà e speriamo che i tempi non siano tutti al 2030, inteso come data futuristica e futuribile, ma anche dei tempi più realistici. E poi è importante, quando tu ricordavi Massimo, cioè, se non si va verso lo switch off, cioè l'obbligo a sostituire il doppino, puoi disincentivarlo e in maniera anche abbastanza forte, premiando l'operatore che te lo porta e a questo punto con una forte minaccia verso gli operatori, perché se non lo portano loro il cliente ha un vantaggio anche magari fiscale o di bonus, il cittadino italiano, per passare a un altro operatore. Grazie al direttore di Wired Italia Massimo Russo, alla collega del Sole 24 Ore Laura Galvagni. La borsa, dicevamo la borsa, domani vedo molti messaggi, vedremo anche il Consiglio dei Ministri con cosa uscirà, ma mi sembra che l'indicazione del sottosegretario Giacomelli sia già abbastanza chiara, nessun obbligo ma un forte incentivo a, mettiamola così. Allora, Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Al di là del Nasdaq che ha toccato i 5.000 punti, non capitava dal 2000, oggi l'indice complessivo di Piazza Affari invece ha fatto meno 0,18, Londra meno 0,1, Francoforte invariata, Parigi meno 0,70, giornata moscia, possiamo dirla così, sugli indici. E i titoli invece, da un lato G-Tech più 3,51%, e ST Microelectronics più 3, G-Tech fa giochi, ST Microelectronics più 3,14, World Duty Free più 2,55, Fiat Chrysler più 2,20, Autogrill più 1,80, Ferragamo più 1,60, Luxottica più 1,5, Telecom più 1,30. In fronte opposto, Pop Emilia Romagna meno 2,70, Buzzi Unice meno 2,5, Jux meno 1,70, Banco Popolare meno 1,40, come Prismian. L'1,30 lo perdono sia Intesa San Paolo che Moncler, l'1% è il calo di UbiBanca, Atlantia ed Eni, ma anche la Pop Milano. Allora, G-Tech ha ricevuto il via libera alla fusione con l'americana IGT. Sì, esattamente, G-Tech continua a beneficiare di questa notizia che è arrivata la settimana scorsa, era stato uno dei titoli migliori venerdì, oggi è stato appunto il migliore tra le blue chip, e il fatto è che sarà effettiva questa fusione col gruppo americano IGT, G-Tech diventerà uno dei colossi mondiali del settore dei giochi, ci sarà tutta una trasformazione della società che è stata già comunicata. G-Tech, che poi è l'ex Lottomatica, da gruppo solo italiano ormai è diventato un gruppo globale, sposterà la sua sede a Londra, e comunque gli analisti vedono in queste trasformazioni comunque degli elementi positivi che hanno rimesso il titolo sotto i riflettori. Ancora tra i titoli, World Duty Free si è risvegliata, si era un po' raffreddata nel fine settimana e invece è tornata a crescere oggi, sempre sulle voci, se ho ben capito, di aggregazione e vendite. Visto che parliamo di World Duty Free, parliamo anche della sorella Autogrill, più 1,81%. Sì, esattamente, oggi è stata la Repubblica a risvegliare l'attenzione sui titoli che erano comunque, soprattutto World Duty Free era colso molto nelle ultime settimane proprio per queste attese su un possibile annuncio di accordi o di fusioni, e si parla, il quotidiano parlava che Edizione Holding, che è l'azionista con il 50,1% di World Duty Free, che potrebbe prendere una decisione entro l'estate, e si rifanno i nomi di quelli che potrebbero essere possibili partner del gruppo italiano, dalla Svizzera Dufry, poi Lotte, Scilla, anche Qatar Duty Free viene dato tra gli interessati, e anche alcuni fondi di private equity. E questa febbre, da M&A per World Duty Free avrebbe contagiato anche Autogrill, anche se gli analisti ricordano che la ricerca di un partner per Autogrill era stata già annunciata quando era stata scorporata da questa società la stessa World Duty Free, e comunque in questo momento si parla soprattutto di un partner che potrebbe aiutare la società italiana a crescere crescere nei mercati emergenti dove è poco presente. Allora, su questo invece bene anche Fiat Auto. Ora Fiat Auto, Fiat Chrysler, come si chiama adesso, più 2,25%, c'è il salone dell'auto di Ginevra e insomma qualche dato che così rafforza, non dico entusiasmo, il titolo. Sì, esattamente. Oggi tutto il settore auto europeo è stato sotto i riflettori proprio per l'avvio del Salone dell'Auto di Ginevra. Alle 18 ore italiana verranno pubblicati i dati sulle immatricolazioni auto, cioè alle 18, scusate, verranno dati i dati sulle immatricolazioni auto italiane e ieri, proprio in vista dell'inaugurazione del Salone dell'Auto, Alfredo Altavilla, che è il responsabile dell'area EMEA di FCA, ha confermato che l'obiettivo di raggiungere il break-even a livello di utile operativo nel 2015 verrà per quanto riguarda le autorità europee, dopo che c'era stato un rosso di 100 milioni nel 2014. Quindi questa indicazione, questa conferma di un ritorno comunque, se non all'utile, alla parità, comunque è stato visto positivamente. Allora resta con noi perché c'è un altro titolo, Telecom, ne abbiamo parlato fino adesso, Telecom comunque va bene, più 1,31%, e va spiegata sta cosa, evidentemente il mercato forse non crede che il governo andrà a penalizzare la dichiarazione Telecom Italia, la dichiarazione poco fa del sottosegretario andava in quel senso. E poi un debutto oggi, no? OVS, la catena di negozi di abbigliamento a prezzo ragionevole, oggi debuttava in borsa. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa e si diceva di OVS. Debutto di OVS abbastanza così piatto, Flavia Carletti. Sì, di nuovo buonasera. OVS ha chiuso appunto proprio invariata rispetto al prezzo di IPO a 4,1 euro per azione. È vero che comunque il titolo era partito male stamattina, è stato quasi tutta la giornata in territorio negativo ed è riuscito a recuperare solo sul finale. Il management stamattina comunque, quando ha visto che l'esordio non era brillante, si è comunque detto soddisfatto dell'operazione, anche perché gli è servito a raccogliere sul mercato i fondi che secondo loro saranno poi necessari per un ulteriore sviluppo della società, che è stata scorporata dal gruppo Coin e che, come ha ricordato il management, solo una decina d'anni fa rischiava di fallire. Infatti parlavano di che rischiava di portare i libri in tribunale, mentre invece adesso hanno detto veniamo a raccontare una storia di successo nonostante questo esordio non brillante. E comunque la cosa che è stata sottolineata è che comunque la società ha visto l'interesse di molti investitori istituzionali, non solo italiani ma anche esteri, soprattutto inglesi e americani. Quindi comunque adesso vedremo nei prossimi giorni come farà, perché comunque era già il 4,1 euro per azione, era comunque già nella parte bassa della forchetta, quindi bisogna capire se era una valutazione magari sbagliata del prezzo oppure proprio magari una giornata oggi appunto poco mosso che ha... vedremo, è il primo giorno a tempo. Il titolo, i peggiori: Popolare Emilia Romagna meno 2,70, Buzzi Unice meno 2,40, Jux meno 1,70, Banco Popolare meno 1,45 come Prismian, Intesa San Paolo meno 1,20, Ubibanca e Moncler perdono l'1,1, Atlantia l'1% come Eni e la Pop. Milano, migliori e peggiori in assoluto oggi, dunque Isagro meno 12, più 12,50, Cassa del Risparmio di Genova più 10,20, CHL più 8,40. Fronte opposto invece Valori Italia Holding meno 11, Vivendi meno 4,80. RG Capital meno 3,40. Chiudiamo con Telecom, quindi da dove siamo partiti? Sì, esattamente, Telecom ha guadagnato l'1,3% in una giornata in cui in teoria il titolo, secondo alcuni analisti, poteva perdere, perché domani, che sarà presentato il piano per lo sviluppo della banda larga al Consiglio dei Ministri, verrà avverato dal governo, si parla di questa possibilità di uno spegnimento arbitrario. Sì, ecco, siccome ne parlavamo nella prima ora del programma, il sottosegretario Giacomelli ha smentito che vi sia uno switch off, cioè lo spegnimento arbitrario, ma casomai, da quello che si è capito, incentivi da qui al 2030 per fare in modo, o meglio nel 2030, per fare in modo che uno passi, abbia un vantaggio nel passare alla parte fibra ottica e non al rame, ma non spegnimenti obblighi arbitrari. Infatti devo dire che il titolo, come tu ricordavi, non ne ha risentito oggi, chiude in rialzo dell'1 21,31%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Colle sulle 24 ore. Ultimi due temi. Partiamo da quello di carattere macroeconomico. Il PIL 2014, brutto anno. È vero che i dati arrivati oggi sulla disoccupazione e l'occupazione a gennaio sono in leggero miglioramento, però insomma archiviamo definitivamente con l'Istat di oggi un anno da dimenticare. Da dimenticare perché il nostro PIL è tornato ai livelli del 2000, quindi ci siamo mangiati 13 anni di crescita economica, o di, insomma, non sempre di crescita, ma insomma, e siamo tornati alla produzione industriale lorda del 2000. La pressione fiscale è tornata a salire leggermente nel 2014 al 43,5 dal 43,4. Però, dice il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se consideriamo gli 80 euro non come spesa sociale ma come riduzione fiscale, la pressione fiscale è scesa al 43,1% se si considerano i bonus degli 80 euro. Il debito è salito a livello record dal 1995 al 132%, ma soprattutto sono crollati l'anno scorso gli investimenti, meno 3,3%, i consumi complessivamente hanno avuto una variazione nulla, la spesa delle famiglie ha fatto un più 0,3%, la spesa delle pubbliche amministrazioni meno 0,9% e quella delle istituzioni sociali private più 0,3%. Questo è nel giorno in cui, se la disoccupazione l'anno scorso ha toccato un nuovo record dal 1977 al 12,7%, è scesa di nuovo dopo dicembre anche a gennaio al 12,6%, e la disoccupazione giovanile, pur restando altissima al 41,2%, è ai minimi a gennaio da 17 mesi a questa parte. Professor Alberto Quadro Curzio, che insegna economia politica alla Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. Come teniamo assieme? Perché insomma, gli ascoltatori dicono basta con promesse, con facili ottimismi. Allora, come teniamo assieme un anno che io ho definito da dimenticare, il 2014, un altro anno da dimenticare, con questi segnali che stanno arrivando, fiducia, consumatori, imprese, la disoccupazione leggero calo a gennaio rispetto a un anno prima, ordinativi, prospettive sul PIL. Professore. Ma guardi, la risposta è semplice. Il governo è riuscito a spuntare un rigore fiscale meno marcato, portando il deficit sul PIL al 3%, e questo ha consentito di contenere un effetto trascinamento negativo che da anni, che in qualche modo ha attenuato anche la situazione occupazionale. D'altra parte, il tasso di disoccupazione che aumenta è dovuto all'ingresso nel mercato del lavoro di molte più persone di quanto siano i posti di lavoro creati, quindi è lo sfasamento di due fenomeni, perché vi è stato comunque un aumento di posti di lavoro, sì, intorno a 130.000 unità. Che è quello che rivendica oggi il Premier Renzi, e Poletti dice, il Ministro del Lavoro Poletti dice quest'anno potremmo arrivare a 150.000. Lei dice sì, sono creati 130.000 posti, ma siccome più persone hanno cercato lavoro e entrano quindi nelle liste di disoccupazione quelli che non lo trovano, la disoccupazione è ancora in aumento. Esattamente. Ma lei ci crede a questi segnali che stanno arrivando? Ci crede vuol dire, non che siano segnali falsi, ma che siano i segnali finalmente di una svolta? Guardi, la concordanza dei segnali su un 2015 in miglioramento sia nel contesto europeo che nel contesto italiano è evidente. Naturalmente tutto ciò dovrà andare a materializzarsi anche con un'accentuazione delle politiche che sono obiettivamente necessarie per rilanciare una crescita che in Europa e ancor più in Italia è fiacca da 6 anni, in Italia addirittura negativa, ma anche in Europa è molto fiacca, quasi vicina allo zero negli ultimi 6 anni. Detto questo, io confido che questa operazione di quantitative easing possa anche tradursi in una maggiore maggiore erogazione del credito all'economia, argomento non banale, certo. Perché se questo non accadrà soprattutto in Italia, che è un paese molto bancocentrico, allora la nostra ripresa avrà a soffrirne parecchio. Secondo me questo è uno snodo centrale. Cioè, se il quantitative easing si traduce in una riduzione di tassi del credito commerciale e una maggiore erogazione di credito al sistema produttivo, secondo me nel 2015 avremo una buona ripresa. Se ciò non accade, saranno veramente dei grossi problemi. Sì, perché a me, per concludere, professor Quadrocurzio, ha impressionato molto il dato relativo al 2014 sugli investimenti, che sono calati del 3% ulteriormente. Come si fa a far ripartire gli investimenti? Questa è una domanda, direi, cruciale. Per far ripartire gli investimenti, a mio avviso, è necessario che la stessa Europa ponga a maggiore evidenza questo piano Juncker per gli investimenti, che sarà poca cosa, ma non è il nulla, perché quel moltiplicatore potrebbe avere degli effetti assai significativi. È difficile, quando calano gli investimenti, come è successo in tutta Europa negli ultimi anni, rilanciarli semplicemente dando migliori condizioni di credito, perché la domanda interna rimane comunque debole. Ecco perché questo piano Juncker dovrebbe essere una specie di innesco per rilanciare la crescita economica di tutta Europa. Io sono abbastanza fiducioso che un'intersezione tra piano Juncker e costo del denaro ormai allo zero, teniamo conto che siamo allo zero, sia una combinazione che possa ridare spinta all'economia. Siamo arrivati tardi in Europa, gli Stati Uniti l'hanno fatto nel 2009, noi ci arriviamo nel 2015, meglio tardi che mai, però attenzione, perché il 2015 o svolta oppure saranno dei guai veramente con lei. Grossi. Quindi lei dice, al di là dell'incremento del PIL dello 0,4-0,5 dovuto anche all'effetto euro a 1,11 e un petrolio che si mantiene sotto $50, se vi sarà veramente il combinato disposto dell'acquisto che partirà ufficialmente lunedì prossimo di titoli di Stato da parte delle banche centrali, e quindi l'operazione di Draghi di quantitative easing renderà più facile il credito e a tassi più agevolati, e nel frattempo il piano Juncker, che vale 15-20 miliardi di soldi veri, però dovrebbe generarne, dice Juncker, 300, io non ci credo, ma comunque esatto. Il combinato disposto potrebbe darci la svolta, altrimenti restiamo con una crescita insoddisfacente, perché 0,4-0,5 dopo che siamo tornati ai livelli del 2000, professore, insomma, non è che ci possiamo accontentare. I guai diventerebbero allora molto gravi, e è difficile prefigurare uno scenario dell'Eurozona così, perché gran parte delle cartucce sono state usate. Certamente manca la grande misura, che è quella degli Eurobond, che, come lei sa, io sostengo da anni. Sfonda una porta aperta. Appunto. E quindi vediamo un po' come andrà a finire, ma io sono abbastanza fiducioso, senza farmi soverchie illusioni, e tuttavia sono abbastanza fiducioso. Io mi auguro che lei abbia ragione. Sono dell'idea che se avessimo fatto 5 anni fa gli Eurobond, cioè obbligazioni europee garantite dall'Europa, dalla BCE, per fare investimenti, non per pagare il debito, ci mancherebbe, ma per fare investimenti, non avremmo avuto bisogno di fare LTRO, quantitative easing e quant'altro. Saremmo già fuori, perché sarebbero ripartiti gli investimenti pubblici di opere importanti, infrastrutture, così ci ricolleghiamo al tema delle telecomunicazioni dell'inizio. Esattamente. I consumi interni non sarebbero al palo. Stiamo cercando tutti i modi per tenere buoni i tedeschi, che non ne vogliono sapere di finanziare con un debito europeo investimenti che renderebbero l'Europa più competitiva, ma ormai, esattamente non so più in che modi dirlo. Grazie anche al professor Alberto Quadrocurzio. Adesso il traffico e poi la classifica del Sole 24 Ore sulle città che danno più multe, ma soprattutto sul record negativo di incassi, perché la maggior parte dei comuni non riescono poi a incassare le multe che emettono. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, automobilisti di tutta la penisola, aprite bene le orecchie se non avete letto il Sole 24 Ore oggi, perché nel giorno in cui la Fiat festeggia, siamo contenti, il dato sulle immatricolazioni auto in Italia le consegne del gruppo Fiat Chrysler hanno fatto più sostanzialmente 13,47% a febbraio rispetto all'anno prima. Il Sole 24 Ore fa sapere che gli automobilisti di Milano sono quelli più tartassati delle multe, più 6% la riscossione, con importi medi di 176 euro a patentato, 140 milioni di incassi. Secondo classificata Firenze, però scendono gli incassi, meno 3,5, 140 euro medi di importo. Poi Parma, meno 14% gli incassi, 118 euro. Poi Treviso, meno 10% gli incassi a 112 euro in media di multa. Bologna, meno 30% gli incassi con importi medi di 100 euro. Poi Roma è al 21esimo posto, gli incassi scendono e la multa media è di 65 euro. Napoli, la multa media è di 47 euro. Palermo, la multa media è di 37 euro. Catania, la multa media è di 35 euro, a Bari la multa in media di 30 euro, Reggio Calabria 22 euro, Taranto è all'ultimo posto con multe in media di 0,2 euro. Ma come fa una multa a essere di 0,2 euro? Lo chiedo a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera, buonasera a voi. Faccio notare che tutte queste città che ho citato hanno incassi in calo brusco, meno 34%. Ora, diciamola tutta, o gli automobilisti da Roma in giù sono decisamente più disciplinati, perché le multe vanno da 65 euro a 30 euro, a 22 euro in media, oppure c'è qualcosa che non funziona nei comuni, perché mi sembra strano che a Milano in media siano 176 euro e a Firenze in media 140 euro. È un problema di disciplina alla guida? Allora, queste sono le cifre, cioè il totale delle multe incassate dal comune diviso il numero dei patentati che c'è nel comune. Poi naturalmente sappiamo che nelle città vengono molti da fuori, eccetera. Incassi in calo quasi ovunque, tranne che a Milano, sono dati consuntivi del 2014. Incassi in calo quasi ovunque, tranne a Milano, dove una serie di autovelox e una maggiore impegno, ancora maggiore impegno, già erano impegnati prima. Ora è ancora maggiore l'impegno della polizia municipale a sanzionare chi viola il codice della strada, ha prodotto una controtendenza, cioè a Milano crescono del 10% gli incassi, le multe totali in Italia incassate nel 2014 sono 1,2 miliardi, cioè il valore più basso dal 2008, cioè da quando c'è questo sistema dell'economia che le monitora. Ecco, ma come mai? Perché insomma uno potrebbe immaginare che proprio viste le difficoltà in cui versano i nostri comuni, quando un automobilista compie un'infrazione, perché insomma, partiamo sempre da questo, per un parcheggio, per un semaforo rosso, per quello che è giusto che il comune ha un ottimo modo per recuperare soldi in chi sta infrangendo il codice della strada. Per cui qual è il problema nel recuperare le multe? Il problema soprattutto nel centro-sud, ma non solo, comunque nelle città più in basso nella classifica, è un problema A di controlli, nel senso che in molte città le multe non vengono fatte, ma anche quando vengono fatte le multe sono tra le voci di entrata comunale più evase in Italia, in maniera naturalmente difforme da zona a zona, perché sono le più complicate da riscuotere. La riscossione negli enti locali è sostanzialmente bloccata da una riforma, non so, qualcuno magari si ricorda che nel 2011 si disse che Equitalia doveva uscire dalla riscossione comunale perché ci voleva la riscossione dal volto umano. Ecco, sì, sta riscossione dal volto umano non l'abbiamo ancora vista. Di proroga in proroga la riforma non l'abbiamo fatta. Naturalmente le voci più critiche incontrano maggiori vie di fuga in una macchina della riscossione, certo, che ha le unghie spuntate o meglio che è in molti casi poco efficiente. Allora, sciolgo invece il dubbio su come fa a essere una multa di 0,2, perché voi avete fatto la media a patentato. Ci sono anche dei patentati che non pigliano multe, è il totale. No, però, non in questo studio, sì, forse non in questo studio, perché io sono in grande conflitto di interessi, però 176 euro a patentato a Milano vuol dire che alcuni, che giustamente, no, bravi loro, non pigliano multe, altri ne hanno 300-400 di media. Chi vi parla alla... è molto sopra media. Sì, anche chi conduce purtroppo. Però mentre a Taranto 0,2 vuol dire 0,2 che... vuol dire che le multe incassate sono molto poche, per cui se tu prendi l'incasso annuale e lo dividi per il numero dei patentati vengono pochi centesimi. Sì, va da sé, e qui il commento è mio, che secondo me è anche un indice dell'efficienza di un'amministrazione, nel senso che, mi dispiace dirlo, ma se Roma, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria non riescono a, se partiamo dall'idea che tutto sommato il tasso di infrazione è simile nel paese, non mi sembra che gli automobilisti di Napoli siano famosi per essere più attenti al segnale della strada rispetto a quelli milanesi, vuol dire che c'è un'efficienza nel comune che da un lato i vigili fanno altro evidentemente o non vedono, e dall'altro anche quando i vigili vedono e danno la multa tu non sei in grado di riscuoterla e ci perdi dei soldi, perché il comune di Milano ha incassato 140 milioni. Ora, mutatis mutandis, il comune di Napoli potrebbe incassare la stessa cifra, no? Però non riescono a far funzionare l'amministrazione comunale, perché a nessuno piace pagare le multe, ma è indubbio che questo sia un indicatore anche di efficienza. Grazie a Gianni Trovati. Grazie a voi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.